vivo, assorbo e poi scrivo. Quando mi connetto l'effetto esplosivo. E quindi 87.9, torniamo come vi dicevo in diretta per... abbiamo insomma una corrispondenza, un corrispondente direttamente dall'Egitto, dal Cairo. Buongiorno. Buongiorno. Ah, ciao, senti, allora abbiamo insomma un po' già sentito quello che è successo ieri, un'ennesima grande manifestazione per le strade del Cairo, e ti va insomma di farci, di raccontarci quello che invece sta succedendo oggi, soprattutto cosa è successo ieri sera, perché poi dopo la manifestazione di cui te già ci hai raccontato ci sono stati diversi arresti, abbiamo letto sui giornali anche un attacco molto forte nei confronti dei giornalisti, nei confronti di Al Jazeera soprattutto, e quindi insomma se ti va di farci un resoconto da ieri pomeriggio fino a oggi. Allora, ieri pomeriggio in piazza c'è un clima di estrema tranquillità della vita della piazza Tahrir, questo è un aspetto molto importante da sottolineare, che c'è un nuovo stile di vita egiziano dentro la piazza Tahrir basato sull'eguaglianza sociale, nel senso vedi il contadino vestito con il vestito popolare, la bella beia, che sta discutendo sulla politica con un signore aristocratico. Allora questo è un aspetto interessante che non l'avevo mai visto in vita mia qua in Egitto, questo dialogo. Slogan, canti, manifesti anche simpatici. Allora la piazza tutti i giorni ha questo aspetto all'interno, qualche scontro ha sicuramente, paura alle entrate della piazza, ai confini della piazza. La piazza è molto grande, ha tantissime entrate, basta dirti che quando sto dentro la piazza sono molto tranquillo e sento che respiro la libertà. Quando devo andare via, devo uscire per andare al bagno, per mangiare, per portare qualcosa, entrare, è lì che siamo tutti allarmati, perché alcuni di questi banditi aspettano fuori la piazza per aggredirci. Sicuramente non tutte le entrate sono pericolose, ma le entrate purtroppo, quelle che sono attaccate al centro del Cairo, proprio dove ci sono le caffetterie e i ristoranti, questi sono più pericolosi. Ragazzi, volontariamente hanno spostato un po' i blocchi per assicurare di più la piazza, però questo non garantisce la sicurezza della piazza. Però ripeto, all'interno della piazza una grande festa bellissima, straordinaria, di un Egitto che mi rende molto fiero di me e del mio popolo. Nessuno ruba, nessuno aggredisce l'altro, anche se sono diversi politicamente, volontari che raccolgono le carte per terra, che la sera scopano la piazza è molto pulita perché intanto qualcuno si traia per terra a riposarsi, la piazza è molto pulita, qualcuno passa che porta l'acqua, qualcuno esce a comprare un po' di panini, poi la regala, la distribuisce a chi trova, al primo che trova quando entra, è una solidarietà sociale bellissima. Senti, ieri abbiamo visto diverse manifestazioni, anche insomma i giornali in Italia ci hanno riportato di manifestazioni pro e contro Mubarak in piazza, e diciamo qual è la condizione a livello governativo, cosa sta succedendo, e soprattutto insomma queste manifestazioni pro Mubarak, che cosa ne pensi? Ci abbiamo un'altra domanda. E poi un'altra cosa, vogliamo sapere se questi comitati di quartiere che si erano creati proprio in difesa di questi per difendersi da questi comitati o di questi gruppi pro Mubarak, se ancora sono attivi nella piazza Midan Tahrir e in tutta la zona circostante, quindi piazza Talat Harb e tutto il resto. Sì, i comitati che stanno in Piazza Pari stanno facendo un ottimo lavoro, io ho lavorato anche con loro perché non è che è un comitato chiuso, qualunque può andare e può aiutare. Il giorno dell'attacco, mercoledì, mi sono messo con loro per assicurare la sicurezza per un ospedale nel campo, diciamo, dove i medici stavano dando il soccorso ad alcuni manifestanti che sono stati feriti dall'attacco dei banditi, io non li chiamo pro Mubarak perché veramente sono non è un colore politico. C'è stata una manifestazione mercoledì, ma lontana da Tahrir pro Mubarak. Ok, quella era una manifestazione che non è arrivata a noi, però quello che noi abbiamo subito mercoledì era un attacco di un gruppo armato di tutti i tipi contro manifestanti, ci sono tantissimi feriti e fino ad oggi più di 300 persone hanno perso la vita in questi 12 giorni di mobilizzazione in Egitto. Senti, un'altra domanda, invece a un certo punto sono arrivate notizie, insomma, di rivolte nelle carceri, in diverse carceri dell'Egitto, penso soprattutto al Cairo, e di liberazione di vari dei prigionieri. Siccome questa notizia è apparsa e poi è scomparsa nello stesso istante, si hanno giù notizie maggiori? Cosa sta succedendo nelle carceri egiziane, visto che c'è chi dice che stanno ammazzando un sacco di prigionieri, c'è chi dice che invece se ne sono liberati addirittura più di 1000 e via dicendo? Senti, io quello che vorrei sottolineare rispondendo alla tua domanda, però la metterò un po' più larga. Allora, la situazione è molto ambigua faccio un elenco di alcuni punti. Il coprifuoco messo dal 28 gennaio non è un coprifuoco reale, nel senso la notte si vive tranquillamente, solo che c'è molta difficoltà di spostarti, soprattutto con la macchina, perché questi comitati popolari che hanno preso il lavoro della forza dell'ordine, che stanno proteggendo i loro quartieri. Allora, passando per ogni strada siamo stati fermati 3-4 volte per ciascuna strada. Allora immagina che siamo spostati da un quartiere all'altro e ti chiedono questi dove vai. Però devo sottolineare che anche ieri notte ho passato in un quartiere, in una zona, tipo Scampia a Napoli, per rendere conto. E ragazzi che ci hanno fermato del comitato popolare del quartiere, ci hanno controllato la macchina, carta d'identità, tutto quanto, alla fine ci hanno dato i documenti, ci hanno chiesto scusa, e scusa per il disturbo, e noi sempre rispondevamo, abbiamo risposto no, noi che dobbiamo ringraziarvi. Allora, questo coprifuoco che non è reale, perché l'hanno messo in atto e perché ancora c'è, non ha senso. L'unica cosa che sta facendo stancare tutti questi comitati popolari che stanno proteggendo le loro quartieri in tutto l'Egitto. La presenza dell'esercito, una presenza minima paragonandola con un caso simile nell'86 che io ho vissuto, dove in ogni piazza al Cairo c'erano carri armati, ma oggi la presenza dell'esercito è minima, stanno nelle piazze solo principali o intorno alle sede del potere, che è ovvio. La polizia perché non è tornata ancora a fare il suo lavoro? Questo è un grandissimo punto interrogativo che io non capisco. Trovo solo alcuni della polizia stradale in qualche punto e basta. Allora dove sono andati? Che stanno facendo oggi? Perché non sono tornati a fare il loro lavoro? Ancora per stancare questi comitati popolari? Questo è un altro punto interrogativo grandissimo. E poi parliamo dei prigionieri. Quelli che sono scappati il 28, il 29, alcuni di loro hanno parlato in diretta usando cellulare con il Jazeera il sabato mattina, dicendo che sono stati lasciati soli dentro le celle e sentivano delle spari forti fuori. Allora, come mai sono stati lasciati fuori? chi la lasciate, chi ha deciso di lasciarli e chi sparava, e poi dopo come sono scappati, sono entrati, arrivati a casa loro, e poi chi aveva dato i telefoni, i cellulari per parlare con Al Jazeera. Allora questo è una cosa che ha bisogno di un'inchiesta seria per capire come sono successe queste cose e la responsabilità di chi. Oggi qua, non è oggi, nell'altro giorni, siamo convinti che c'è già un piano per creare il caos. Non è che il caos l'abbiamo creato noi, perché abbiamo visto che i comitati popolari hanno protetto i loro quartieri, la piazza Tahrir funziona alla grande, in una civiltà che io non immaginavo mai, che noi siamo così civile, allora perché stanno creando il caos? Queste sono le domande che qualcuno deve fare in un'inchiesta seria, e secondo me faremo 5.000 documentari quando la situazione si calma, perché ci sono tante cose da scoprire in questi solo 12 giorni. Sì, volevo fare anche io una domanda. Ieri parlavamo, ci raccontavi un po' della situazione e eri un po' preoccupato della stanchezza diffusa, un po' del disorientamento di chi è indeciso e vede questa crisi che si protrae e quindi una difficoltà proprio di tornare a uno stato di normalità. Ecco, come è utilizzato dal regime questo stato, come è architettato, e qual è la reazione dell'egiziano medio a una situazione di caos preordinato che si protrae nel tempo? Allora, il pericolo, che questo è uno degli aspetti molto importanti, come stanno utilizzando i mass media ufficiali del regime, che ancora fino a ieri notte alle 2:30, quando sono riuscito a vedere qualcosa, stavano macchiando la piazza Tahrir di essere tutti agenti pagati da, senti questa per la barzelletta, iraniani e americani e israeliani. Allora tutti amici messi insieme per far saltare l'Egitto. Allora, noi non siamo gli egiziani, quindi questa bellissima rivoluzione popolare la stanno macchiando di essere rivolta controllata dall'esterno di forze che vogliono la distabilità del paese. E poi chi sono? Alleati americani, amici israeliani e nemici iraniani? Allora non si capisce. È il problema che, purtroppo, perché hanno mantenuto fino ad oggi il coprifuoco, e perché la polizia non è tornata, e perché le fabbriche non funzionano, e perché la gente trova qualche difficoltà a tornare alla normalità, pochi pensano che il problema è la politica del regime, che, o questo piano del regime, ma tanti del ceto medio pensano che la piazza Tahrir che è il problema. Ma il ceto può vivere senza la piazza Tahrir? Voglio dire, se noi continuavamo ad occupare la piazza Tahrir per sempre, secondo voi l'Egitto si ferma? Ma perché le fabbriche non funzionano? Perché il coprifuoco ancora c'è? Perché la polizia non torna per strada? Allora, ieri notte sono uscito dalla piazza per mangiare e ho trovato alcuni che sono convinti che dentro la piazza siamo tutti agenti che lavorano per un'agenda politica esterna, che siamo i cattivi, diciamo così. E mi sono messo a parlare con loro e alcuni credo che hanno utilizzato il cervello per capire che non è così, ma purtroppo noi non possiamo parlare con tutto il paese. Oggi abbiamo una stampa veramente libera, devo sottolineare due strutture che sono da tempo erano oppositori, ma oggi sono rinati. Un quotidiano che si chiama Al-Sharuq, che esiste anche su internet, dove scrivono i giornalisti più importanti nella storia egiziana, che ultimamente l'Ahram, il quotidiano storico più importante dell'Egitto, l'aveva cacciato fuori. Allora, Al-Sharuq è un giornale pro piazza il Tahrir e anti sicuramente tutto quello che sta succedendo, un grandissimo scrittore, pensatore, giornalista, Sami Wedi, oggi ha scritto un articolo bellissimo composto di tre parole: siamo tutti piazza il Tahrir. Finito l'articolo. Pronto? Sì, ci siamo. Una piccola domanda ancora, vogliamo sapere. Un'altra cosa. Dici. Un'altra cosa, ONTV. ONTV è la rete satellitare dei Nagib Sawiris, che è l'imprenditore egiziano, cristiano, patriota, che in Italia forse qualcuno lo conosce perché aveva comprato Inve e poi l'ha venduta dopo. Comunque, Nagib Sawiris ha quella ONTV, e ONTV è diventata da 3 giorni Al Jazeera egiziano, nel senso che la rete che racconta veramente la verità, che dice tutto, che nomina le cose come stanno, che discute la situazione discutendo con i cervelli dei telespettatori, non raccontando il falso e non prendendo in giro la gente, dal notiziario, il telegiornale, fino ai programmi di approfondimento serale, che partecipano tanti pensatori, studiosi, politici, eccetera, eccetera, eccetera. Una cosa bellissima che mi rende fiero. Come andrà a finire? Almeno abbiamo guadagnato fino ad oggi queste 2 strutture. Speriamo che continuiamo, che avremo il fiato lungo per arrivare fino alla fine. Non dimentichiamo che chi guida oggi il paese, il vicepresidente, una persona che ha una strategia e tattica e esperienza nelle trattative politiche molto lunghe. Allora non è che una persona che facilmente, non è una persona semplice, una persona da essere molto molti attenti a trattare con lui, perché è una persona con le palle, diciamo così, a fare il suo lavoro. Scusa, aggiungiamo un'altra domanda. Vogliamo sapere, infatti, hai parlato prima di questa bella voglia di parlare tra i Badawi, l'aristocratico all'interno della piazza, senza nessun tipo di rivendicazione politica, o meglio, le differenze politiche che comunque si mettono da parte. Vogliamo parlare un attimo degli islamisti, di questi appunto islamisti, dei fratelli musulmani, nel senso, si dice sempre di questo pericolo, questo spauracchio dei fratelli musulmani, se ci sono slogan o rivendicazioni all'interno della piazza da parte di alcuni movimenti in particolare, come la Fratellanza Musulmana o altri o partiti laici, insomma, se ci sono queste distinzioni, se si avvertono oppure no, se gli slogan sono tutti secolari. La piazza non ha avuto mai un slogan o un manifesto politico con un colore politico. Fratelli Musulmani sicuramente fanno parte della società, scusami, Fratelli Musulmani può essere un vicino di casa che avete lo stesso palazzo. Allora Fratelli Musulmani non è che vanno in giro con il tesserino, io non conosciamo loro leader, quelli che vanno a media a parlare, però non conosco nel mezzo del popolo, però devo dire che dentro la piazza Tahrir nessuno mai ha alzato un slogan di un colore politico. Il slogan famoso di Fratelli Musulmani, l'Islam è la soluzione, non è stato mai detto, nominato, scritto, visto, sentito dentro piazza Tahrir. Io sono laico completamente, allora non sono mai stato da parte dei Fratelli Musulmani, però devo difendermi di queste menzogne. Ci sono in piazza? Sì, sicuramente ci sono in piazza. Hanno un microfono che guida la preghiera, allora questo dice che allora sono loro, se guidano la preghiera da lì, sì. Ma io l'altro ieri ho sentito parlare da quel microfono a un cittadino che ha chiesto la parola, che quel cittadino diceva: io voglio un Stato laico non religioso. Parlava dallo stesso microfono che guidava la preghiera 5 volte al giorno. Allora Fratelli Musulmani hanno guadagnato il mio rispetto in tutto questo, anche se sono avversario politico come idea politica. Non esistono partiti dentro, la piazza non ha rappresentanza, e questo è anche un problema per il regime, un problema anche per l'America, che nessuno può parlare oggi in nome della piazza. abbiamo sentito qualche, abbiamo visto qualche comunicato stampa in qualche giornale, anche di giornali tipo Shuruk che vi stavo raccontando prima, di quel giornale Libero, qualche comunicato stampa di un gruppo di non lo so chi che hanno un'opinione per risolvere il problema, ma nessuno può rappresentare il popolo di Piazza Tahrir. Nessuno può rappresentarle. Tutte queste persone hanno un unico obiettivo, unica richiesta. Dal primo giorno fino a questo momento, il crollo del regime. Il regime deve andare a casa. E dicono che il regime per loro è il presidente e i suoi uomini, non solo il presidente. Solo questo. Solo questa richiesta. Punto. Nel momento in cui questo succederà, Piazza Tahrir tornerà ad essere il simbolo di questa rivoluzione popolare e tutti ce ne vanno a casa o continueranno a fare la nuova vita politica reale, libera, partecipata e tutto il resto. Ma senza questo Piazza Tahrir rimane come adesso. Quindi ecco, da quello che tu dici, sono insomma, avvalora quello che dicevamo prima anche noi qui per radio, personalità come il Baradei o Amr Moussa sono tutte personalità che stanno in realtà loro seguendo la piazza, non il contrario. Cioè, qual è la percezione che la piazza ha di queste personalità che sono tanto mediatizzate a livello internazionale, no? Oppure del Comitato 6 Aprile come gruppo? No, certo, tutti stanno seguendo la piazza, guarda. Ha cominciato il 6 aprile il comitato di Khaled Said, ragazzo che è stato massacrato dalla polizia in Alessandria qualche mese fa, e tutto il resto, che sono questi gruppi che sono nati, cresciuti utilizzando internet, e Kishaya, che è un altro gruppo che aveva cominciato qualche anno fa chiedendo la dimissione di Mubarak, che sa vuol dire basta, basta. Allora, però oggi, cioè, non è oggi, dal venerdì 28 nata la rivoluzione popolare, la mia mamma a 65 anni è uscita qua per partecipare vicino, perché non era solo Piazza Tahrir il venerdì 28 gennaio, erano anche in tutto l'Egitto, allora c'erano i punti per partecipare nella marcia per chiedere il crollo del regime. Se la mia mamma a 65 anni, che ha problemi di salute, ha deciso di lasciare casa e andare a fare una cosa che non ha fatto in vita sua, e questo che vuol dire? Che il Baradei che controlla, che i fratelli musulmani che controllano, no? C'è una vera, reale rivoluzione popolare. E il pericolo oggi è che questa rivoluzione popolare viene rubata. Qualche forza politica fa un accordo con il regime e usciamo dopo tutta questa perdita di soldi e di anime in un nuovo sistema che sembra un po' più libero, un po' più bello, un po' più moderno, un po' più diverso di questi 30 anni passati, ma non otteniamo quello che noi vogliamo davvero. Questo è il pericolo vero che c'è oggi e questa è la mia preoccupazione, e con tutti gli amici stiamo discutendo che possiamo fare per proteggere la rivoluzione popolare da non essere rubata e perdere tutta questo sforzo. Sì, infatti questa era, diciamo, un po' la domanda anche un po' conclusiva che ti volevamo fare, quelle che pensi siano le prospettive future, nel senso, come tu dicevi, anche le preoccupazioni di un governo di transizione moderato, dare, insomma, un po' di briciole, tra virgolette, al popolo per transitare verso un altro governo simile all'attuale, invece di un cambiamento radicale che mi sembra la società, a cominciare appunto da tua madre, cercano di portare nella piazza. Io volevo farti un'ultima domanda più su proprio quella che è l'atmosfera di Piazza Tahrir in questi giorni. Ieri era prevista la giornata della partenza, in realtà mi sembra che purtroppo abbia funzionato. Mubarak rimane al suo posto e oggi abbiamo capito che è una giornata più di riposo, anche perché immagino che chi è fisso in quella piazza da giorni abbia anche bisogno di recuperare delle energie per poter scendere in piazza. Ecco, cosa prevedi nei prossimi giorni, almeno già dalla giornata di domani, sarà l'atmosfera di Piazza Tahrir e quale sarà la forza delle rivendicazioni della piazza? Non possiamo prevedere nulla perché, come dicevo prima, non è che la piazza ha una guida per sia dei movimenti o da parte dei partiti politici per poter dire allora ci sarà qualcuno che dice alla fine basta ragazzi, abbiamo deciso, siamo arrivati a una conclusione, abbiamo ottenuto qualcosa o noi continuavamo, tranne il crollo del regime. Allora, in questo momento ci sono trattative da tutte le parti, persone, tantissimi ci sono entrati. Amr Musa, il segretario generale della Lega Araba, è entrato a fare parte di questa commissione di saggi che nell'interno hanno delle persone da rispettare, tipo Ahmed Kamal Abdelmajid, un ex ministro, un esperto della Costituzione, una persona che io rispetto moltissimo, ad esempio, ma nel mezzo anche di questa commissione ci sono tanti nomi che io personalmente ho punti interrogativi sulla loro presenza nella commissione. E ecco l'esempio, ognuno di noi vedrà e si dichiarerà queste trattative dal suo punto di vista, però finché non vediamo che qualcosa sta cambiando davvero, finché non vediamo che la TV egiziana manda una telecamera dentro Piazza Tahrir per far vedere veramente chi c'è lì e continuano a legittimare la piazza e criminalizzare la piazza, e questo è il pericolo, che domani possiamo essere tutti processati, perché se la TV egiziana continua a far capire e a diffondere la menzogna che siamo tutti pagati da un'agenda politica straniera, vuol dire che siamo traditori, vuol dire che domani saremo tutti processati per tradimento, e il popolo in quel momento influenzato di mass media rimarrà zitto, non dirà nulla. Se domani il regime deciderà di far saltare in aria tutta la piazza, la metà del popolo egiziano oggi applauderà perché sono influenzati dalla TV di Stato. Allora questo è il problema. Il vicepresidente due giorni fa nella sua intervista alla TV egiziana ha detto tutti quelli che hanno causato la situazione critica attuale devono pagare il prezzo. Allora state attenti, tutti quelli che hanno causato la situazione attuale critica devono pagare il prezzo. Allora chi sono? Noi o quelli che hanno attaccato Piazza Tahrir? La polizia che ha lasciato la strada o i manifestanti? E tutti quelli, metti tutti insieme. Questa è la mia preoccupazione oggi, che la piazza perde l'onore della rivoluzione popolare e viene processata come traditori. Questo è un problema. Che succederà domani veramente non lo so, vedremo, perché le cose stanno andando velocemente, ci sono tantissime iniziative e nessuno può prevedere nulla, e secondo me non anche l'America può prevedere quello che succederà. Possono fare accordi. Io volevo farti un'altra domanda sulla questione dei media che hai toccato. Devo dire che almeno qua dall'Italia una delle fonti più autorevoli, più aggiornate è Al Jazeera. Io personalmente sto appiccicato alla diretta tutto il giorno e seguendo il blog. Ieri, come saprai, la sede, dopo essere stata chiusa, è stata devastata dagli attivisti pro Mubarak. Oggi ti do una notizia di poco più di un'ora fa: un altro giornalista di Al Jazeera è stato arrestato all'aeroporto del Cairo. Ecco, volevo capire, da parte della piazza, diciamo, degli insurgenti egiziani, come è vista la presenza della stampa internazionale, specialmente dell'emittente Al Jazeera, che sta, devo dire, da questa parte della barricata sta facendo un gran lavoro ai nostri occhi? Allora, sono due cose diverse. Uscendo ieri dalla piazza, come dicevo prima, parlando con alcuni cittadini che erano fuori della piazza, uno di loro era incazzato nero contro Al Jazeera. Io non avevo visto Al Jazeera perché è un piazza, allora non ho capito che cosa l'ha fatto incazzare, a parte dell'attacco del mass media ufficiale del regime sul Jazeera. Non ho capito. Allora sì, troverai una parte degli egiziani contro Al Jazeera. Anche è successo un fatto ieri che il sito del Jazeera è stato attaccato dai hackers, chissà, saranno forse dei vicini che ha fatto questa cosa, e hanno messo un slogan, tutti per far crollare l'Egitto. Sicuramente io, come uno che prova di utilizzare il suo cervello, ho capito che questa sicuramente non è Al Jazeera, perché nessuno può mettere un slogan del genere, o perderà la simpatia di 80 milioni di persone. Allora, Al Jazeera, come ho letto stamattina, hanno fatto un comunicato che il loro sito è stato, diciamo, attaccato di hacker e non sono stato loro. Io credo che questo, ragionando, è vero. Però il fatto dei giornalisti stranieri è tutto altro. Ma perché se vengono attaccati i giornalisti stranieri? E chi li attacca? E per quale motivo? Che cosa può ottenere? E perché sono ancora tanti di loro dentro la piazza? Io ieri ho visto tanti di giornalisti stranieri dentro la piazza e lavoravano in una estrema libertà dentro la piazza, perché vi dicevo che la piazza è veramente una cosa straordinaria di libertà. Qualche corrispondente ieri, un pochino leggero, utilizzava alcuni manifestanti che stavano lì con uno sfondo e ripeteva il suo stand up, il suo messaggio con le stesse persone. Dice, allora dobbiamo farla un'altra volta, ok, veniamo ragazzi, facciamola un'altra volta, ok. Era una cosa bella. Perché vengono attaccati i giornalisti stranieri non lo so, perché qualcuno vuole macchiare Mubarak e il suo regime fino alla fine. E questo anche dobbiamo ragionare un po'. Siamo contro il regime? Sì. Siamo contro Mubarak per quello che ha fatto? Sì. Ma perché qualcuno dentro l'Egitto sta facendo di tutto per macchiare quell'uomo fino all'ultima goccia? Perché? Chi ha ordinato l'attacco contro Piazza Tahrir mercoledì? Chi ha pagato quei banditi che ci hanno attaccato? Dopo il discorso di Mubarak di martedì, che 90% degli egiziani hanno cambiato idea dopo il suo ultimo discorso, quando ha detto sono nato qua e morirò qua. Gli egiziani sono anche molto sensibili a livello sentimentale a queste cose. E la mattina dopo viene attaccata la piazza. E poi ricordatevi una cosa: attaccando la piazza con cavalli e cannelli, ok, questa è proprio un'immagine indirizzata all'esterno, al mondo occidentale, che questa immagine è un attacco di barbari. Allora l'Occidente può capire le manganellate della polizia, ma non capisce mai il cammello in piazza. Il cammello in piazza vuol dire barbari, vuol dire una cosa incivile, una cosa bruttissima. Perché sono stati utilizzati questo? Allora qualcuno ha pensato a fare una cosa del genere. Basta avere queste immagini per l'Occidente, per rendere tutto l'Occidente contro Mubarak. E poi attaccando giornalisti stranieri. Allora qualcuno qua dall'interno sta facendo tutto questo per macchiare Mubarak fino all'ultima goccia. Chi è e perché? E come mai un alleato importantissimo per l'Occidente ha perso così velocemente l'appoggio dell'Occidente? Ci sono tantissimi punti interrogativi, ragazzi, che anche io, aiutatemi a trovare una risposta. Ecco, questa ci ha alzato un po' la palla, perché un discorso che poi volevamo, almeno una domanda volevamo farti, è su l'influenza che continua a avere l'Occidente sulla politica egiziana, in particolare l'influenza del vicino scomodo, diciamo, di Israele rispetto a quelle che sono le politiche. Ti segnalo, insomma, che c'è stato stamattina, sicuramente lo saprai, questo attentato al gasdotto che va verso la Giordania, dove non ci sono, sembra, feriti o morti, però le fiamme sono visibili a miglia e miglia da dentro Gaza. Sono delle immagini su Al Jazeera dove si vede questa colonna di fuoco visibile a monte. Ecco, che lettura dai a questo aspetto e apposta qual è il ruolo di Israele a questo punto della situazione? Allora, come sapete meglio di me o come me, che siamo sicuramente un paese importantissimo per l'Occidente, per la sicurezza di Israele soprattutto, e per anche tutta l'agenda americana nel Medio Oriente. Allora, io ho una lettura un po' diversa, nata dopo questi giorni in piazza, discutendo con amici che conosco da tanti anni. Allora, la conclusione è: l'America si è stufata dall'atteggiamento israeliano a non collaborare per la soluzione del problema dell'occupazione della Palestina. L'America ha reso conto che sta pagando un prezzo molto caro per l'occupazione israeliana della Palestina. L'America aveva bisogno di una carta per poter mettere gli israeliani sotto, non al contrario, perché abbiamo visto ultimamente che gli israeliani hanno mandato all'altro paese tutte le richiami dell'amministrazione Obama per colonizzazione, le colonie e tutto questo. Cambiando il regime in Egitto mette il pericolo o fa paura agli israeliani, già questo, ok? Allora, così non sono gli americani che l'hanno fatta, sono gli egiziani, bravi, hanno cambiato il regime, voi siete in pericolo, allora dovete un po' collaborare. Questo problema Palestina dobbiamo trovarlo una soluzione, perché non dimenticate che qualche settimana fa sono usciti sul Jazeera questi documenti che hanno bruciato Abbas e hanno bruciato l'autorità palestinese. Allora, perché e come mai? Perché in questo momento, in qua un punto interrogativo, e il fatto che la piazza qua in Egitto viene macchiata del regime egiziano attuale, che filo iraniano, o c'è una presenza iraniana o c'è mani dell'Iran all'interno, allora un segnale che il regime ha un'agenda contro l'Iran. Allora sarà la nuova guerra americana nel Medio Oriente contro l'Iran, e l'Egitto deve fare parte di questa guerra, cambiando regime, risolvendo un po' il problema Palestina. Allora l'Egitto e altri paesi arabi avranno il fiato per affiancare l'America contro l'Iran, e così l'America ha messo Israele sotto a livello politico, dovete collaborare e basta questa arroganza. Nello stesso momento mettere paura all'Iran, che trova nel problema Palestina un terreno fertile per lavorare sia all'interno della Palestina o al Libano o qualunque, perché chi controlla l'occupazione avrà sempre la solidarietà del popolo qua nel Medio Oriente. Forse, pensate un pochino voi e poi mi fate sapere se siamo nati qua in piazza Tahrir ad arrivare a questa conclusione, forse è vera. Sì, mi sembra, insomma, questa ultima tua affermazione, ultimo tuo discorso, mi sembra molto molto interessante, e sicuramente sarebbe da porlo a diversi interlocutori, tra cui anche i palestinesi, e che sicuramente, insomma, su questo avranno dei ragionamenti. E noi ti volevamo ringraziare e dire che, insomma, nella giornata di oggi e di domani a Roma ci saranno delle manifestazioni a fianco della popolazione egiziana, E sicuramente, insomma, ci farebbe piacere con te continuare questa discussione, per cui ci sentiamo e ci risentiremo nelle prossime giornate.